Santei, pescatore, grandi orecchie a sfantola, sorriso di sole, Santei. Ma che sarà? Pesce, cane, spada, che sarà? È questione di momenti, abboccherà. Amica tua, una canna fatta di magia, e quell'amore una calamita, impossibile cambiare strada. Paradisi fiscali. Risarcimenti alle vittime di pedofilia. Campagne di disinformazione su bioetica, omosessualità e lotta all'AIDS. Un quarto del patrimonio immobiliare italiano, esenzione dall'ICI. Condizionamento della pubblica istruzione. Ingerenze nella politica. Sfruttamento dell'ignoranza e della superstizione. Speculazione sul dolore e sulla paura della morte. Aiuti alle peggiori dittature fasciste. Camauri d'Ermelino Estone, anelli d'oro accassettate. Scarpine di Prada. Viaggi a giro per il mondo. Con l'8 per mille alla Chiesa Cattolica avete fatto molto. Ora anche basta, eh? Vai. Psicólogos e muchos psiquiatras han demostrado que no hay relación entre celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado, me han dicho recientemente también, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia. Esta es verdad. Muchos que leen documentos de psicólogos, allora este es el problema. Un altro fronte di polemica sulla pedofilia per una dichiarazione del cardinale Bertone: non c'è relazione con il celibato ma con l'omosessualità, ha detto Bertone. Insorgono i gay, un'analisi grossolana in Germania ha scritto scene sulla casa natale di Ratzinger. Sentiamo Sergio Criscuoli. Scritte oscene, talmente ingiuriose da non poter essere riferite dalla polizia, sono comparse stamane sulla facciata della casa natale di Benedetto XVI in Baviera e sono state subito cancellate. Un episodio isolato ma grave che dà il segno del clima che lo scandalo della pedofilia ha creato attorno al Papa e alle alte gerarchie vaticane, le quali talvolta reagiscono con dichiarazioni che non aiutano la posizione della Chiesa. Dopo le ripetute gaffe sugli ebrei e sul presunto complotto sionista, ne è arrivata un'altra che sta facendo insorgere le associazioni gay di mezzo mondo. Il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato Vaticano, durante la sua visita in Cile ha dichiarato testualmente: molti psichiatri hanno dimostrato che non c'è relazione tra celibato e pedofilia, e invece molti altri hanno dimostrato, me lo hanno detto recentemente, che c'è una relazione tra omosessualità e pedofilia. Tempo poche ore e si è scatenato un putiferio. L'Associazione Italiana Psichiatri Cattolici definisce le teorie di Bertone assolutamente prive di fondamento. L'Arcigay dice che è stata offesa la buona fede di milioni di credenti. Gay Libre, l'associazione dei gay di centrodestra, osserva con sarcasmo che sarebbe opportuno trasferire il Vaticano a Teheran. E ci sono reazioni indignate anche tra i rappresentanti politici di entrambi gli schieramenti. Una nuova fiammata polemica di cui Benedetto XVI avrebbe fatto volentieri a meno alla vigilia della sua prossima visita pastorale a Malta, dove non si esclude che incontrerà alcune vittime di abusi, come aveva già fatto in Australia e negli Stati Uniti. voglia che mi è presa l'altro giorno che ero in chiesa, quel prete mi fissava per davvero. Dopo messa andai di là, lui mi disse guarda qua, mostrandomi orgoglioso il suo bel cero. Ecco il prete che mi benedirà, d'acqua santa costui mi schizzerà. La Santa Chiesa è la mia casa e la fede è la mia strada, son certo che mi condurrà lontano. Sacerdote, credo in te, ma ora dimmi che cos'è quello che tu mi stai mettendo in mano. Sull'altare io mi chinerò, il suo corpo così riceverò. Oh che bella la cappella dove mi inginocchierò. Ah, alleluia. Alleluia. Fortuna, dopo 45 anni di votazioni, ho votato, di conoscere finalmente il candidato per cui voterò. Ah, perché ci ho lavorato insieme da parecchi anni, l'ho apprezzato, lo stimo, per cui ecco, adesso finalmente so per chi votare. E chi è? È l'ex presidente. Cossiga? Come Cossiga? Che c'entra quello? L'ex presidente nostro della Fininvest. Ah, ha capito adesso? Berlusconi. Sì, ma mica sotto voce, Berlusconi, si capisce, Berlusconi, Forza Italia. Oh, ma lo sapete che domenica prossima si vota? Il tempo vola, è una cosa incredibile. E tutti si stanno chiedendo, ma Forza Italia, Silvio Berlusconi ce la faranno? Beh, io l'ho seguito molto Silvio Berlusconi quando parlava in televisione a proposito di tutti i progetti che ha, e naturalmente ha detto tante cose molto molto belle, molto interessanti. Ma molta gente, chissà perché, vengono da me perché dicono ma tu lo conosci da tanti anni, e mi dicono ma Berlusconi promette tante cose ma poi le farà. Beh, io vi devo dire, se devo giudicare dalle mie esperienze, beh, io devo dire che Berlusconi quello che promette fa. Dillo, dillo, schierati che tanto ormai. Ma mi devo schierare? Sì, io sono per Berlusconi, questo è evidente. Ah, non solo per una questione di coerenza politica. Vi assicuriamo, dirigente della RAI, Silvio Berlusconi non vuole le punizioni di quelli della satira. Qui nelle reti Fininvest non l'ha chiesto, non l'ha mai fatto. Potete risparmiare Giusti e Ghezzi, ai quali vanno i nostri auguri. Solo con lei.